ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Una buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ci troviamo questa mattina, ci troviamo in modo un po' atipico, però ci troviamo di persona quasi con Carlo finalmente, no? Siamo diciamo vicini di casa questa volta, abbiamo soltanto una parete tra di noi. Vero, ciao, voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, sono molto contento perché finalmente sono tornato in radio, come dicevi tu, siamo però separati in studio, come si suol dire, in due studi diversi, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, le mascherine, addirittura una nuova spugnetta igienizzata per il microfono, della quale sono fierissimo, anche perché Carmelo mi ha detto che me la posso portare a casa e quindi, essendo io disposofobico, come ho raccontato qualche volta fa, ovvero ho dei problemi di accumulo, io penso che non la butterò mai via questa, quindi in qualunque, non so, nel 2030, nel 2044, quando ci avete voglia, se passate da me trovate la spugnetta della trasmissione di oggi. Esattamente, ma no, non sarà solo per la trasmissione di oggi, che dobbiamo confessare è in registrata, non siamo live, quindi non avremo i soliti appuntamenti con voi ascoltatori, non avremo quiz in questa puntata, non potremo sentire le vostre voci. Io so che devo confessare, insomma, in questo weekend in cui non sono qui, sono al mare a fare un tuffetto perché finalmente è giunta l'ora. Tu so che di sicuro hai portato una guida per questa puntata, per ispirare anche i nostri ascoltatori alle loro prime gite. Sì, più che una guida è una collana di guide, diciamo, visto meglio che ancora. Ormai siamo a luglio e questo maledetto o benedetto lockdown rende difficilissimo, se non impossibile, organizzarsi per delle vacanze o qualcosa che le possa ricordare. Oggi appunto vi volevo parlare di guide turistiche, ma non guide normali, non guide con gli orari di apertura delle pizzerie, dove dormire spendendo poco, o i 5 monumenti da vedere per forza e di corsa. No, parlo della collana di guide turistiche della Voland Edizioni, le guide alle città ribelli. Al momento ci sono Parigi, Mosca, Roma, Barcellona, Venezia, Firenze e Berlino, almeno queste sono quelle che conosco, forse ci sono anche alcune altre città. Gli autori di queste guide, che di volta in volta cambiano perché sono sempre profondi conoscitori della realtà che descrivono, perché la abitano quotidianamente e la studiano, conducono il lettore alla scoperta di luoghi e personaggi spesso poco conosciuti, che sono stati appunto protagonisti di storie curiose che hanno a loro modo forgiato il carattere della città. Storie di ribellione, di riscatto, di libertà, storie che man mano rendono chiara la formazione di una comunità chiamata città. Storie a volte drammatiche, a volte buffe, divertenti, magiche, storie a volte piccole che si innestano nella storia con la S maiuscola, o anche storie enormi, però descritte dal punto di vista di ciò che accadde in una casa, in una piazza, in quel luogo in cui ancora oggi magari si può scorgere una targa di cui nessuno ricorda l'esistenza. Infatti sono guide belle anche che ti fanno scoprire delle targhe, spostare degli arbusti e dire: ah, eccola dove era questa targa. Sono guide che si avvalgono anche di contributi esterni, non so, faccio un esempio, nella Roma ribelle non può mancare la voce di Ascanio Celestini, e sono ricche anche di consigli di lettura o di visione che spaziano da Calvino a Freud, alla Morante, a Basaglia, quello che ha chiuso i manicomi. Io queste guide le trovo affascinanti, soprattutto perché una città è fatta dalla comunità che la abitano e dalla battaglia continua di queste per sentirsi più libere, più felici, più unite. E ovviamente una città è le storie che lì sono avvenute, è un contenitore di vita comune. Insomma, di questi tempi in cui Io personalmente cerco di evitare le classiche guide perché mi suscitano solo nostalgia dei viaggi che quest'anno non potrò fare. Queste guide ribelli sono uno splendido antidoto, perché le storie, al contrario degli orari delle pizzerie o le aride descrizioni dei monumenti, si possono leggere oggi e decidere di visitare quei luoghi quando ci sarà finalmente di nuovo concesso. E poi Carlo, queste guide ti ci portano lo stesso, cioè se anche le leggi adesso alla fine, no? Ti portano, ti accompagnano. Sono delle guide con le quali riesci anche un pochino a viaggiare dal divano. Hai ragione, sono molto d'accordo, perché invece le altre che ti dicono dalle 17 alle 21 il prezzo del biglietto, ti viene voglia di prendere un aereo o un treno e andarci. Esattamente, cosa che non puoi fare, quindi ti innervosisci, quindi chiudi la guida. Bravissima. Se invece la prendi da un'altra parte, innanzitutto mi è piaciuto il titolo, Ribelli. È buffo perché le guide ribelli rende più l'idea di quello che sono rispetto a guida alla Berlino ribelle, che sembra che sia Berlino la ribelle, invece la guida, il tipo di guida, se ho ben capito. Beh, che è un po' ribelle, due, perché tutte la due. Più famosa è stata la prima, che è quella alla Parigi ribelle, quindi ovviamente c'è tutta la questione anche rivoluzionaria, no? Quindi di vedere Parigi con gli occhi della rivoluzione. E poi però ci si è resi conto che in tutte le città, o perlomeno in molte città, la ribellione, che può essere anche un po' più piccola della rivoluzione francese, che non lo so, di Milano non c'è ancora, però immagino le cinque giornate, immagino gli assalti ai forni del pane di cui parlava Manzoni, quindi si può trovare un modo anche per ogni città in cui la ribellione, in fondo, come dicevo prima, è il fatto di una comunità che cerca di migliorare le proprie condizioni, o di una delle comunità, delle varie comunità da cui è formata una città. Quindi partecipa molto al concetto proprio di comunità e di città, il fatto di avere delle ribellioni o di mettersi insieme, di avere degli obiettivi comuni, ecco. Mi sembra molto bello e molto interessante. Io vorrò senz'altro approfittare del tuo consiglio di lettura. Non so bene adesso scegliere, però insomma ci penso. Oppure sarebbe anche bello, ecco questo, prendere una città che tu conosci, sì, quindi comprare la guida di una città che già conosci e leggerla nell'ottica della guida alla Firenze ribelle, per esempio, e vedere se ti ci ritrovi, se la conosci. Magari potremmo proporre anche ai nostri ascoltatori un qualche gioco di questo genere, però quando saremo live. In esatto. Questa puntata invece, no, domani parliamo di Bari, ma non è Bari ribelle, ma è semplicemente una guida atipica. Beh, nuova di Bari. Esatto. Però non è che va a cercare i luoghi delle ribelloni, no. Però ti propone Bari in un modo diverso, ma questo sarà domani, ovvero domenica. E in questa puntata invece avremo tanti argomenti da affrontare, i più diversi. Parliamo tra l'altro ad esempio di energie sostenibili, perché insomma si dice tanto della ripartenza green, ma dai dati che abbiamo visto ci sarà poco da essere green se le cose andranno così. Parleremo di case naturali, la qualcosa a me incuriosisce moltissimo. Io ho sognato più volte di farmi una casetta, a volte ho detto di lei, a volte ho detto di mattoni, a volte ho detto di paglia. Adesso, ecco perché terra e paglia sono loro, quindi mi aspettavo. Sì, sì, sì. Però mi sono anche detta, e ne parleremo con loro, se vale la pena costruire in un territorio vergine, no? Quindi c'era prima il campo, poi c'è la mia casetta magari naturale, ma pur sempre casa, con tutte le urbanizzazioni, le fognature, la luce, devi portare tutto, no? Se costruisci una casa. Quindi forse non è tanto opportuno. Vorrei chiedere un po' a loro il loro parere, non so, poi dopo... Glielo chiediamo di sicuro. So che tu non sei molto caldo, tu preferisci la città, sei un uomo urbano, ma un animale realtà, urbano. Terra e paglia si occupano anche in città, insomma, è un po' tutta la gamma, da costruire da zero, che ovviamente è anche una cosa più impegnativa, a invece ristrutturare, a iniziare ad usare alcuni materiali naturali, non tanto perché fa figo usare i materiali naturali, ma perché sono più utili, sono molto più comodi, sono molto più salubri. Oh, però bisogna avere i soldini comunque per fare le cose. E per sapere come va l'economia, noi in questa puntata abbiamo deciso di utilizzare le competenze di un collega del Sole 24 Ore che tutti conoscono molto bene, sarà in collegamento con noi tra pochissimo, Mauro Meazza, perché vogliamo che lui ci dica intanto se tutti questi indici un po' atipici di cui abbiamo trovato scritto l'indice del rossetto, se le donne usano o non usano il rossetto, o la questione delle gonne, o la questione del Big Mac sono degli indici attendibili della salute della nostra economia, e se quindi possiamo progettare magari la costruzione di una casetta o la ristrutturazione naturale di un appuntamento, no? Cosa dici? Ci lasciamo per la viabilità, Carlo, e poi rientriamo su questo argomento. Non chiamateci che oggi non rispondiamo. Non rispondiamo, non ce n'è per nessuno. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In questo caldo sabato 18 di luglio noi vogliamo adesso, Carlo, vero, parlare un po' di soldi, un po' di economia, ma lo vogliamo fare a nostro modo, perché noi non siamo degli specialisti in materia. Non so tu come te la cavi. Non è assolutamente la mia materia, infatti questo mi sembra un modo bellissimo, trovare degli altri indicatori, cercare di capire come sta andando l'economia anche senza capire niente di economia, quindi è proprio il mio tema. Esatto, e poi invece capendo quello che è nel mondo che ci circonda, nella nostra esperienza, i panini, le calze, che ne so, i rossetti, addirittura le gonne. La lunghezza delle gonne è stata più volte indicata come un indice di maggior benessere o minor benessere. Gonnazionaria si chiamava, perché la regola è che più salivano le borse e più si accorciavano i vestiti, e quindi in italiano la gonnazionaria, che mi è sempre piaciuto molto. Allora, per parlarne con competenza, abbiamo un ospite che tutti gli ascoltatori di Radio 24 sicuramente già conoscono bene, perché lui è uno dei conduttori ogni giorno di Due di Denari, anche caporedattore centrale del Sole 24 Ore, e lui ovviamente è Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno a tutti. Senti un po', ascoltatori. Ma questa cosa delle gonne è vera? Esiste un indice così? Allora, sì, esiste, però forse è un pochino datato. Cioè, allora, qual è il problema? Dobbiamo pensare alle calze delle donne prima che alle gonne delle donne. Allora, in un periodo di prosperità, presumibilmente le donne hanno più disponibilità economica per comprarsi delle calze, mentre in un periodo di minore prosperità ci sono meno soldi per comprarsi le calze. Allora, la gonna tende ad allungarsi, a scendere, a coprire. Ora, devo dire che con l'invenzione del collan, questo è un indice che è stato un po' superato, diciamo così, notato negli anni 20, con l'invenzione del collan a me sembra un pochino superato. Però guarda, nelle varie crisi che si sono succedute, perché purtroppo non ogni tot anni succede qualche rovescio. Ad esempio, dopo la crisi Lehman, per dirti, 2008-2009 e tutti gli anni a seguire, c'erano stati anche degli editorialisti, degli osservatori, perché gli economisti le dicono queste cose però poi si vergognano, che avevano individuato altre cose, ad esempio l'avvenenza delle cameriere, cioè nei periodi di crisi nei locali ci sarebbero cameriere più avvenenti. Avvenenti quindi vuol dire per invogliare a stare nei locali, a frequentare i locali. Sì, ma soprattutto perché l'indice è che nel momento in cui c'è crisi le cameriere meno carine o gli uomini vengono allontanati, cioè se tu devi licenziare qualcuno inizi da quelli, perché dici ne ho poche e tengo solamente quelle carine, se ho capito bene. Sì, adesso sul carine diciamo che siamo stati molto gentili e politically correct. Lì l'indicatore che era stato individuato era proprio che dovevano essere procaci. Sì, sì, è la sexitudine, diciamo. Ecco, questo mi sembra un termine educato per non offendere, non urtare la sensibilità di alcuno, soprattutto di alcuna. Poi un altro indice di crisi potrebbe essere il livello di istruzione medio dei tassisti, cioè se si comincia, chi può naturalmente, chi continua a prendere il taxi, a notare che il tassista è mediamente più istruito, ecco, questo dovrebbe stare a significare che effettivamente il lavoro ce n'è poco in giro e quindi va bene anche fare. Cioè se il tassista ha due lauree in più di te che ci va in taxi, c'è un problema. Abbiamo un problema, esatto, Houston abbiamo un problema. E poi ce n'è uno che era stato sempre individuato post Lehman, era stato individuato credo dall'Economist o dal Guardian, adesso una di queste testate inglesi, che diceva che nei periodi di crisi, e questo mi vergogno un po' a dirlo, diminuiscono le vendite di mutande da uomo. Perché sai, noi maschi, come dire, se dobbiamo risparmiare su qualcosa diciamo vabbè, ma in fondo una mutanda mi può durare anche un po' di più, no? Perché devo comprare una mutanda nuova? E quindi ci sarebbe questo risparmio. Io non assumo naturalmente alguna responsabilità. Però insomma, adesso è un po' presto per vedere, no? Se queste regole tengono anche a questa situazione che stiamo vivendo. Però possiamo tenerle d'occhio magari. Sì, diciamo, adesso è chiaro che tutto è stato condizionato parlando più seriamente, dal periodo di chiusura degli esercizi commerciali, e quindi tutta una serie di vendite che abitualmente vengono prese, il famoso indice del rossetto, che vengono prese come indicatori, ecco, in questo momento sono meno affidabili. Dobbiamo evidentemente aspettare e fidarci invece dei dati macro che ci arrivano, quelli abituali, insomma produzione industriale, ordinativi, ecco, questi sono gli indicatori che possiamo guardare con una certa affidabilità. Poi parte un po' il tiro delle percentuali, il gioco delle percentuali, per cui dice il PIL calerà del meno 12, meno 13, meno 18, insomma lì però sai, sono comunque previsioni e sono più difficili. Certo. Magari ecco, l'indice del rossetto potremmo valutarlo con estendendolo un po', che so, l'indice dei negozi di cosmetica a basso costo, ci sono diverse catene presenti in Italia, vediamo se queste tengono nei mesi prossimi, nei mesi a venire, o invece magari soffrono anche loro il morso della crisi da pandemia. Un indice un po' diverso, ma un po' diverso anche, vabbè, adesso poi ce ne parli tu, ma sono quelli legati anche agli alimentari, il famoso indice Big Mac, no? Funziona diversamente, lì vai a vedere quanto costa il Big Mac in diversi paesi e cerchi di avere un'idea dell'economia di quel paese attraverso il costo, no? Sì, questa è un'invenzione dell'Economist, anni 80 mi pare, e la Burgernomics, cioè valutare in realtà non tanto l'andamento della crisi o meno, quanto il potere d'acquisto, cioè siccome c'è un oggetto, che un alimento che dovrebbe essere uguale in tutte le parti del mondo di questa enorme catena, quindi il Big Mac, vediamo quanto costa nelle varie valute. È utile per capire se una valuta è sopravvalutata o sottovalutata, nel senso che potrebbe darsi che per lo scambio che avviene sui mercati valutari in realtà non rispecchi il reale potere d'acquisto di quella valuta, che potrebbe essere superiore o inferiore. Che altro tipo di indicazioni arrivano da questi indici, che non sono credo solo economiche, sono anche di sensazione credo delle persone, di come si sentono, se si sentono sicure o meno sicure? Ma guarda, hai colto perfettamente il punto. Secondo me, anche si dice che anche il PIL, il prodotto interno lordo, alla fine è bugiardo, perché non misura tante cose, eccetera. La felicità, per esempio, si dice, esatto, giusto? Si cerca l'indice del benessere e così via. In realtà, sai, il prodotto interno lordo, come tanti indicatori economici, misura una certa cosa, risponde a una domanda. Se ne vogliamo fare delle altre, non risponde. Certo. Questi indici, alla fine, questi indici anomali, per così dire, il rossetto, la lunghezza delle gonne, cose di questo genere, insomma, indicano secondo me più fedelmente se la percezione diffusa della fiducia o non fiducia, che come sappiamo è il carburante essenziale, perché se le persone hanno fiducia, se abbiamo fiducia nel nostro futuro, nell'andamento delle cose, siamo portati a spendere un po' di più, ovviamente, perché ci aspettiamo di poter guadagnare anche un po' di più. Se invece non abbiamo fiducia, siamo preoccupati, siamo scettici sulle prospettive a breve o a più lungo termine, ecco che allora tendiamo a spendere di meno. Estendo la cosa a una considerazione generale, si dice sempre che noi italiani teniamo tanti soldi sul conto corrente e li investiamo malvolentieri, però consideriamo che le prospettive, ad esempio, dei nostri giovani, dei nostri figli, occupazionali, retributive, eccetera, sono decisamente peggiorate rispetto a quelle delle generazioni precedenti. E allora è normale che in queste condizioni prevalga sul lungo termine, perché è una tendenza che vediamo da tanti anni, la prudenza. Quindi teniamoci un po' di soldi da parte, che non si sa mai. Ecco, potremmo chiamarli gli indici del non si sa mai. Bravo, ci piace e non ci piace insieme, ovviamente, per ovvi motivi. Grazie Mauro, grazie molte. Grazie mille. Appuntamento grazie lunedì con te e con Deborah Rosciani con Due di Denari. Adesso ci fermiamo perché abbiamo GR24, tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Il loro slogan è "Due occhi per chi non vede", è lo slogan del servizio cani guida dei Lions, scusate, una Onlus, che ha finalità, come si può così forse immaginare da questo slogan, di dotare persone non vedenti di una guida. E questa guida è una guida a quattro zampe che viene specificamente, appositamente addestrata, anche gratuitamente addestrata, dai appunto Lions, dal quindi servizio. Due occhi e quattro zampe per chi non vede. Precisamente, due occhi e quattro zampe. A quel punto, beh, basta, non contiamo più. Troppo diventa troppo complicato, ma vogliamo parlare di come funziona tutto questo meccanismo con Giovanni Fossati, che è presidente nazionale del Centro Addestramento Cani Guida per Ciechi dei Lions. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi e a tutti chi ci ascolta. Intanto buongiorno. La ringraziamo per averci scritto, ricordiamo, anzi ne approfittiamo per ricordare a tutti il nostro indirizzo email, sipuofare@radio24.it, per chi volesse segnalare appunto quello che succede in questo nostro bel paese che riserva tante belle sorprese. Vero, giusto. Oppure lo potete fare anche sui nostri social, ovviamente, anche sui nostri social personali. Il mio Twitter è Carlo Gabardini, @CarloGabardini, oppure Facebook Carlo Gabardini. E niente, e è così, fatelo, esatto. Fatelo perché a noi servono, ci fanno piacere, ci piace insomma conoscervi e ci piace conoscere appunto storie come quella di cui ci parlerà adesso Giovanni Fossati. Allora, voi appunto addestrate questi cani guida e poi li assegnate gratuitamente. Abbiamo scoperto che c'è una lunga lista di attesa, quindi c'è molta necessità di questi cani. Purtroppo sì, e soprattutto giovani, per incidenti stradali o per droghe, eccetera, che arrivano alla città. Purtroppo abbiamo più di 150 persone che aspettano e questo è il nostro problema che ovviamente stiamo per affrontare, però non è facile perché effettivamente noi, pensate che dal 1959, dove è nata questa struttura, è nata grazie a una persona, un ingegnere, Maurizio Galimberti, che è diventato cieco, divenne cieco dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è un aviatore. Un incidente aereo, è diventato cieco per la sua capacità, la sua reazione a quello che le è successo. È andato in Germania dove c'era una scuola cani guida, allora acquistò, perché allora lo pagavano, acquistò un cane guida, venne in Italia e visto che cosa fanno questi angeli a quattro zampe si è fatto una domanda: ma perché anche noi qui in Italia non facciamo questo? E così è nato questa bella avventura che da 60 anni appunto si accomuna. Mi scusi, è una storia bellissima questa di Maurizio Galimberti che lei ci ha raccontato, perché veramente grazie a un singolo che trova un cane in Germania e decide che questa cosa va fatta anche in Italia, ma soprattutto va fatta anche in Italia perché è una questione complicata, è lungo, è difficile addestrare questi cani. Ci racconta come avviene l'addestramento? Ora vi do un dato: dal 1959 ad oggi abbiamo addestrato e consegnato gratuitamente in tutta Italia 2.198 cani. Ora noi addestriamo e consegniamo in tutta Italia oggi 50 cani guida ogni anno. Nascono da noi, abbiamo una nursery con 5 sale parto ed è bello vedere quando nascono perché ti fanno capire che guarda che ti stiamo già dando una mano, come nascono. E io mi commuovo quando parlo di queste e, cose. E poi solo alcuni vengono scelti, giusto? Sì, allora fino a 3 mesi... rimangono in nursery dove prima la prima vaccinazione e da lì si capisce già l'atteggiamento di questi cagnolini. Ecco, poi a 3 mesi vengono dati a delle famiglie volontarie che si chiamano puppy walker, in modo che lo tengono a casa fino a un anno di età. Poi a un anno rientrano al centro dove iniziano la diagnostica completa, perché il cane prima di iniziare l'addestramento deve essere completamente sano. I primi 2 mesi all'interno dove abbiamo 25.000 metri quadri. Poi i nostri tutori tutte le mattine vanno a Milano, vanno a Saronno, in città limitrofe, in modo da insegnargli al cane tutto quello che noi vediamo. Tutti quel pericolo che noi vediamo li evitiamo e il cane deve evitarlo, perché il cane diventa i tuoi occhi, il cane diventa la tua guida, la tua sicurezza. Questo è veramente importantissimo. Poi dura circa 6-7 mesi. Poi vengono chiamati al centro, quando è pronto il cane a lui addestrato, a lui destinato, rimane da noi, abbiamo 4 mini appartamenti, dove vengono da noi sempre ospiti, con un accompagnatore, rimangono da noi, dormono con il cane, in modo da prendere una settimana, 10 giorni, quanto basta, tutti quei comandi dall'addestratore che è stato il suo cane che servono per poter appunto perché in realtà bisogna insegnare anche al non vedente a come trattare con questi cani. Esattamente così. Ecco, lì poi è il momento più bello, quando io vedo, mi commuovo sempre, quando vedo questa persona che ha acquisito il suo cane ed esce dal nostro centro per una vita serena e sicura. Senta, io starei ad ascoltarla per ore, purtroppo non abbiamo moltissimo tempo. Io vorrei assolutamente che lei ricordasse il modo per poter fare una donazione a voi, affinché ci siano più di 50 cani all'anno e possibilmente si riesca a smaltire questa coda rapidamente. Noi siamo sostituiti dai Lanci Italiani, dai Leo che sono i Giovani Lions, poi dalla Regione Lombardia che ci dà dei contributi, aziende come Macchisofi ci aiuta sempre. Comunque basta andare sul nostro sito www.caniguidalions.it, caniguidalions.it, e trovate tutto quello che serve. Lions è per i non capenti, giustamente. Va bene, lì si trova tutto e lì si può aiutare e insomma essere sostenitori, certo, di questa iniziativa. Certo. Presidente, la ringraziamo molto, allora buon lavoro e a risentirci presto. Grazie mille dell'attenzione, grazie a tutti. Grazie a lei, bau. Viabilità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Dopo la viabilità ritorniamo in studio, Carlo, e ritorniamo per parlare di un tema, diciamo, che ormai è sulla bocca di tutti, questa della ripartenza, la ripartenza green. Abbiamo un futuro diverso davanti a noi da ricostruire, eccetera eccetera, però insomma a me, a vedere i dati dell'ultimo che è il sesto appena uscito rapporto renewable energy, cioè sulle energie rinnovabili. Rinnovabili, per dirla col nostro idioma. Esatto, redatto dall'Energy and Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. Bene, insomma, ho qualche dubbio sul fatto che questa ripartenza possa essere davvero molto green, ma ci chiarirà un po' la questione, soprattutto iniziando dal rapporto, il professor Davide Chiaroni. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Docente di ingegneria gestionale del Politecnico di Milano e responsabile dello studio. Allora, cominciamo, professore, un po' dai dati, no? I dati ci dicono che le energie rinnovabili nello scorso anno hanno subito un po' una battuta d'arresto, mi par di capire. Sì, diciamo che c'è stata una crescita rispetto all'anno precedente, tutto sommato limitata. Quindi se le guardiamo nel complesso, abbiamo installato 1210 megawatt di nuova potenza da rinnovabili, solo 50 megawatt in più rispetto al 2018. Quindi a voler vedere il bicchiere mezzo pieno è un 4% di crescita, a voler vedere un po' le aspettative che si erano fatte su una ripartenza un po' più sostenuta delle installazioni, effettivamente la chiusura del 2019 è stata meno positiva di quanto si era previsto. E figurarsi il 2020, ci immaginiamo, giusto? Oppure invece si può fare in modo che questo 2020, oppure magari, grazie al Covid, in realtà si decida di reagire, di dare un colpo di reni e dare una spinta vera alle energie rinnovabili? Diciamo che il 2020 di sicuro non è un anno semplice. Certo. Il lockdown ha chiaramente bloccato anche le installazioni da rinnovabili e di sicuro ci aspettiamo entro la fine dell'anno una caduta del totale dell'installato rispetto all'anno precedente, quindi di sicuro quest'anno probabilmente riusciremo a fare 600-700 megawatt almeno secondo le nostre previsioni. No, infatti era per questo che era per questo che glielo chiedevo, in realtà, perché se in un anno in teoria buono, cioè il 2019, si è riuscito a fare solamente un più 4%, sappiamo che il 2020 addirittura andrà a meno perché ci sono stati almeno 3 mesi di lockdown. Vogliamo un po' capire che cosa tocca fare a questo punto nel 2021, quali sono le possibilità, perché sennò rimaniamo molto indietro. Diciamo, noi abbiamo segnato un pochino il passo nel 2020, anche il 2019 è stato un po' meno delle aspettative. Questo significa che o riprendiamo davvero la crescita in maniera significativa dal 2021 al 2025, perché ci siamo dati degli obiettivi con il Piano Nazionale Integrato Energia Clima abbastanza sfidanti, oppure facciamo fatica a raggiungerli. Perché la crescita è stata solo del 4%, pur avendo, no, degli obiettivi da raggiungere, che ci siamo anche dati, li abbiamo sottoscritti, no? L'Italia vuole essere trainante. Finora, tutto sommato, le energie rinnovabili avevano avuto una crescita notevole. Ecco, perché c'è stato solo questo 4%? Allora, qui provo a essere invece molto più semplice e diretto. Il problema fondamentale... Mi scusi, è che sono stupido. Le autorizzazioni rispetto agli impianti di grande taglia. Se vogliamo crescere, dobbiamo crescere attraverso gli impianti di grande taglia, perché il fotovoltaico, diciamo di taglia piccola o media, rappresenta uno zoccolo importante del nostro sistema, ma chiaramente non può sostenere la crescita che ci dovremmo aspettare. Per avere queste autorizzazioni è necessario evidentemente accorciare in maniera significativa i tempi. Abbiamo installato, è stato agganciato alla rete quest'anno, questa è una bella notizia, un impianto da 100 megawatt di fotovoltaico in Puglia, che però ha cominciato l'iter autorizzativo nel 2011. Dobbiamo puntare agli impianti grandi? Non eravamo arrivati a un momento storico in cui basta impianti grandi, facciamo tutto diffuso, no? Allora, il vero problema è quanto vogliamo installare, nel senso che il fotovoltaico o la generazione diffusa è sicuramente un potenziale importantissimo, ma per arrivare ai 28 gigawatt che ci chiede il PNIEC è sostanzialmente impossibile immaginarsi una crescita dovuta soltanto agli impianti di piccola taglia distribuiti. Bisogna fare un po' a metà. Ma nemmeno con questo bonus per le ristrutturazioni, che si spera che tutti, nel momento in cui ristrutturano il tetto, installino dei fotovoltaici, questo non cambierà in realtà a livello di percentuale, ci sta dicendo? Allora, io prendo dei dati storici che secondo me sono importantissimi. Anche nel momento più fulgido delle installazioni di fotovoltaico a tetto, viaggiavamo attorno ai 400-500 megawatt. Supponiamo di tornare a questo fulgore, quindi installiamo attraverso l'ecobonus questi numeri possibili, però ce ne mancano sempre altrettanti per arrivare all'asticella che ci siamo dati, certo, come obiettivo. E quelli effettivamente li si possono andare a prendere soltanto investendo su impianti grandi, che peraltro hanno anche maggiori efficienze produttive, quindi insomma c'è anche un vantaggio, diciamo, complessivo di sistema nel puntare sul grande, nei posti giusti, con le condizioni giuste, però insomma non... È che bisogna investire, immagino, è che bisogna investire dei soldi, perché per fare una diga, ovviamente, piuttosto che per un campo di eolico, immagino che servono degli investimenti seri. Servono degli investimenti seri e quindi da questo punto di vista le tempistiche autorizzative e, diciamo, i meccanismi di remunerazione attraverso i quali gli investitori sostengono questi investimenti devono essere chiari, no? Perché è chiaro che se io comincio a fare un investimento e traguardo 5 anni prima di essere autorizzato, il mondo fra 5 anni potrebbe essere completamente cambiato. Se invece so di riuscire a realizzare l'impianto e autorizzarlo nel giro di, diciamo, un anno, è chiaro che posso fare i conti con maggior sicurezza, ecco. Sì, ho visto che avete fatto un'indagine anche sulle necessità, diciamo, no, degli imprenditori e di coloro che lavorano nel campo. Una sicuramente è questa, ma ci sono vari provvedimenti che vengono richiesti e che al momento il governo non sta prendendo in esame, per quanto ne sappiamo, no? Addirittura 19 richieste, 9 vengono in qualche maniera affrontate nell'agenda politica, ne restano scoperte 10. Esattamente. Beh, tra quelle che restano scoperte, diciamo, quelle più importanti sono sicuramente la ridefinizione del meccanismo delle aste, che è il meccanismo attraverso il quale chi vuole realizzare un grande impianto stabilisce a quale prezzo è disposto a vendere l'energia che viene in qualche modo prodotta dall'impianto. I meccanismi delle aste sono stati recentemente riformati, ma manca ancora la volontà dal punto di vista della stabilizzazione dei valori di asta per permettere agli imprenditori di ragionare nel lungo termine. E un altro tema importante riguarda la definizione, oltre al tema autorizzazione che abbiamo citato prima, il tema della definizione di quelle aree cosiddette non idonee, dove non si può costruire e lasciare, dove non si possono costruire impianti e lasciare invece, diciamo, sostanzialmente libero tutto il resto. Perché ricordiamoci che ci sono state diverse problematiche legate all'utilizzo del fotovoltaico in agricoltura, quindi sì, diciamo, in competizione con l'agricoltura, piuttosto che il fatto di voler identificare solo poche aree sulle quali fare impianti di questo tipo. Tutto si riconduce comunque a una maggiore chiarezza alla fine, a una pianificazione, alla solita sburocratizzazione di tutto. E poi appunto se uno ha la capacità, diciamo, del paese di centrare gli obiettivi che lo stesso paese si è dato, poi, perché se uno, certo, si dà quell'obiettivo poi non c'è la strada per arrivarci, però. Beh, teniamo conto che gli impianti a rinnovabili hanno un grosso vantaggio ma anche un grosso problema. Il grosso vantaggio è che il combustibile non si paga, perché il vento e il sole non bisogna pagarli, quindi il vero investimento si fa nel momento in cui l'impianto si realizza. Poi tutto il resto della vita dell'impianto sostanzialmente si basa sui soldi spesi nel momento in cui è stato realizzato, oltre ovviamente alla manutenzione. Alla gestione. Certo. Esatto. Questo però significa che nel momento in cui io decido di fare l'investimento sto mettendo la grandissima parte del capitale necessario in quel momento. E quindi lo posso fare solo se davanti a me ho un orizzonte di visibilità di almeno 6, 8, 10 anni rispetto ai quali mi aspetto stabilità normativa, certezza dell'iter autorizzativo, eccetera, eccetera. Altrimenti faccio fatica a prendere la decisione. Chiaramente. Professore, la ringraziamo molto. Davide Chiaroni, Politecnico di Milano, buon lavoro, buon proseguimento. Alla prossima. Grazie, grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie. Adesso abbiamo una piccola pausa e poi proseguiamo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora Carlo, ripensando a tutta questa energia rinnovabile di cui abbiamo detto poco fa, no? Io ho cominciato a pensare alle case naturali. Non so se tu ci hai mai pensato, qualcosa che non so, che abbia i suoi pannelli molto. E poi devo dire tu non sei molto di città alle case invece. Naturali. Tu sei uno no, sono dure molto puro. Curioso. No, sono molto curioso, ma non ammetto che non ci penso spesso alle case naturali. Io invece ci ho fatto dei gran pensierini. Allora, per questo ti ho portato Sara Lucietto, fondatrice di Terra e Paglia, un nome bellissimo questa impresa. Buongiorno, intanto, Sara. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Spieghiamo un po' a Carlo che cos'è sta casa naturale. Allora, la casa naturale è un tema vastissimo. Diciamo che per costruire casa possiamo scegliere di utilizzare materiali naturali. I materiali naturali sono tantissimi, il nostro nome insomma dice già quelli che sono i nostri preferiti e quelli che usiamo di più, e cioè le balle di paglia e la terra cruda. Hai capito? Beh, no, senza parole. È stupendo, ma non voglio anticipare delle domande. Ovviamente la prima domanda che mi faccio è: un conto se devo costruirmi una casa, nel senso che ho un terreno, e questo a Milano diciamo succede giusto a 4 miliardari, immagino. Invece se io ho un appartamento tra il nono e il decimo piano, mi chiedo se in mezzo posso incuneare una simpatica casa in terra e paglia. Allora, diciamo che appunto i materiali naturali sono tantissimi, a seconda dell'intervento che bisogna fare e di dove sto costruendo, sceglierò il materiale naturale che più è comodo da utilizzare, per cui certo. Ovviamente diciamo le balle di paglia noi le utilizziamo soprattutto in campagna, ma ci sono stati, vi dirò, degli interventi anche urbani, quindi in città, perché esattamente come portiamo i materiali convenzionali nei cantieri possiamo portare anche i materiali naturali, quindi è semplicemente questione di organizzazione. Più spesso ci capita nelle ristrutturazioni, ad esempio, di utilizzare materiali come le fibre di legno, le fibre di canapa, i pannelli di sughero e soprattutto gli intonaci di terra cruda o intonaci di calce. No, ma quindi infatti diciamo, la mia era forse più era più una battuta, perché immagino, no, nel senso che adesso parlando seriamente, immagino che uno in realtà che ci siano vari gradi di usare vari tipi di intervento, certo, sì, anche nel senso di luoghi che diversi. Uno può avere una casa naturale al 100% oppure può decidere che nel proprio appartamento, quello di prima, tra il nono e il decimo piano, in realtà inizia a modificare e a scegliere alcuni materiali che siano dei materiali più validi, più sani, più green, più un sacco di cose dei quali infatti adesso parliamo. Quindi mi è chiarissimo, esatto, che in realtà è molto ampio lo spettro, non è che stiamo parlando di costruirsi una casa di paglia su una spiaggia, che ovviamente sarebbe il sogno, ci mancherebbe altro, ma stiamo parlando sia di quello, sia di arrivare, cioè insomma, sia di partire dalla costruzione di uno che decide di partire dal progetto, sia di uno che inizia a ristrutturare, un po' come mettere i pannelli fotovoltaici di cui abbiamo parlato, esatto, poco fa. Guarda, uno dei nostri approcci insomma che ci piace sempre raccontare è il QB, quanto basta, che sì, tocca un po' questo tema, insomma, nel senso che la sostenibilità a noi piace viverla come una direzione, no? Diciamo, nel senso che non siamo totalitari nella sostenibilità. L'idea è farci delle domande, vedere se ci sono delle risposte naturali e soprattutto rispetto al nostro contesto, rispetto alle nostre risorse, capire come scegliere un intervento che sia meno impattante. Quindi molto spesso noi non realizziamo case che sono 100% ecologiche e sostenibili. No, anche perché però sarebbe impossibile, immagino, cioè bisognerebbe sempre partire da zero. Invece uno deve lavorare anche sull'esistente. Quindi a noi piace molto lavorare con l'esistente, luogo. Esatto, e quindi comunque diciamo che quando lavoriamo con l'esistente soprattutto scendiamo anche a compromessi rispetto anche a quello che già troviamo, e quindi scegliamo magari di abbinare degli interventi naturali a del costruito che invece non è al 100% certo, naturale, insomma, quindi sì. No, anche perché sarebbe assurdo, cioè sarebbe contrario al vostro spirito, immagino, se io devo pensare sempre di realizzare il nuovo abbandonando il vecchio, beh, alla fine non faccio un bene, faccio complessivamente un male, nonostante vada a costruire una casa naturale, insomma. Esatto, no, infatti è importantissimo, insomma, tenere sempre in considerazione il contesto quando si parla di sostenibilità e quindi anche del quanto basta e del QB. Ed è quello che poi ci piace fare, vedere quali sono le risorse locali, quali sono le possibilità e interagire con il contesto, un po' anche la possibilità che ci danno i materiali naturali, soprattutto quando parliamo di materiali locali, è entrare in relazione con il contesto, quindi vedere magari quali sono le tecniche tradizionali, quali sono i materiali che trovo sul luogo e quindi instaurare anche delle relazioni di conoscenza magari più approfondite del territorio di appartenenza. Quindi assolutamente sì, è un dialogo quello che instauriamo con le case naturali. A Carrara si costruiscono delle bellissime case in marmo. Questo non te lo so dire. No. Sono lo stupido dei due, mi perdoni. No, però diciamo che appunto noi facciamo l'esempio delle balle di paglia, ovviamente perché siamo in Umbria ed è un materiale che qua è assolutamente facilmente reperibile, però prima citavate ad esempio appunto le città dove magari invece è più difficile pensare a dei materiali locali naturali, però possiamo invece appunto scegliere dei materiali naturali che siano magari già prodotti, quindi le terre ad esempio possono essere terre locali oppure delle terre premiscelate. Le terre premiscelate, quindi che arrivano da fornaci che ci preparano dei premiscelati di terra pronti da usare sull'intonaco, possiamo usarle praticamente ovunque. Ma voi diciamo siete partiti da che idea? Da quella delle ristrutturazioni o da quella della costruzione, diciamo ex novo? Allora, noi siamo partiti da un altro settore, okay. che è quello dell'educazione. Mm-hmm. Io e Sanni ci siamo conosciuti in un centro di educazione ambientale e, dove appunto lavoravamo con i materiali naturali perché inseriti in laboratori didattici per i bambini, per le scuole, per i gruppi. Da lì abbiamo poi insomma iniziato a parlare di materiali naturali attraverso i laboratori anche fuori dal centro dove ci siamo conosciuti e da quelle prime esperienze fuori dal centro nascono delle commesse di case e quindi abbiamo un po' aperto il nostro spettro di lavoro con i materiali naturali dalla semplice formazione e divulgazione all'artigianato vero e proprio. Allora abbiamo aperto nel 2015 un'impresa edile che ci permette di lavorare a tutti gli effetti nei cantieri. E però contemporaneamente, visto la nostra origine, abbiamo tenuto dentro di noi, dentro la nostra impresa e dentro il nostro progetto anche la parte formativa e continuiamo ad insegnare alle persone a costruire con questi materiali e soprattutto continuiamo anche a divulgare l'utilizzo e la possibilità di utilizzare questi materiali in qualunque tipo di cantiere. Ecco, questa intanto è una parte molto interessante, credo anche per i nostri ascoltatori, quindi la parte didattica. Voi fate proprio dei veri e propri corsi dove ci si può iscrivere e come sono questi corsi? Che cosa si impara? A chi sono rivolti? Allora, a noi piace soprattutto appunto da buoni artigiani fare dei corsi pratici, quindi quando facciamo dei workshop dal vivo, normalmente i nostri workshop sono proprio caratterizzati dall'essere in cantieri veri, che vengono destinati in parte appunto a diventare delle scuole. Quindi è scuola-lavoro, diciamo, alla fine. Diciamo lo facciamo sempre su periodi più brevi, quindi che possono essere dal weekend alla settimana, compatibilmente insomma con le nostre vite contemporanee. E quindi questa è la formazione che noi proponiamo più di frequente, abbiamo partecipato anche a dei progetti di scambio Erasmus Plus in cui appunto i ragazzi potevano durante lo scambio costruire, oltre che relazioni tra i paesi europei, anche fisicamente delle case con i materiali naturali e occuparsi della divulgazione di queste tipologie abitative. Non so, io quando sento, è sempre molto difficile, perché anche per l'esempio che facevamo prima, è vero che uno, cioè, non sa mai se valga la pena di cambiare alcuni materiali magari di casa propria, quando poi dice ma sono pieno intorno di materiali che invece non sono così sani, farò comunque del bene oppure devo mettermi nell'ottica di buttare giù tutto o ristrutturare in maniera molto invasiva? Noi pensiamo di sì, cioè che comunque abbiamo visto che ovviamente... Anche perché da qualche parte bisogna iniziare. Esatto, quindi... esatto. Da qualche parte bisogna iniziare e quello, la parte interessante della casa è che sono materiali con cui noi comunque stiamo a contatto, volenti o nolenti, per molte ore durante il giorno. Non è solo una questione ambientale, anche se ovviamente è una parte fondamentale, ma è soprattutto una scelta di benessere personale della nostra famiglia e quindi di salute. Ecco, questo è importantissimo, perché uno se no pensa che sia semplicemente una fisima, che uno dice ah mi metto dei materiali naturali, ma non è così, perché in realtà questi materiali naturali, per esempio, poi adesso le lascio la parola perché lo spiega sicuramente molto meglio, sono ottimi perché garantiscono la giusta umidità, perché per esempio la terra rilascia umidità nel momento in cui l'aria è secca, quindi tutto quello che solitamente facciamo mettendoci degli giganteschi impianti di deumidificazione o di aria condizionata, in realtà la terra lo fa da migliaia di anni, da milioni di anni, da miliardi, esatto, di anni. Sì. Sì, perché la terra è uno dei primi materiali che l'essere umano ha utilizzato per costruire, quindi esatto. Sì, direi più o meno da quando abbiamo iniziato. Ma a costruire ci case. Qualche beneficio? Allora, diciamo, appunto, a seconda dei materiali che utilizziamo, i materiali hanno delle caratteristiche e quindi queste caratteristiche ci portano a quelli che noi definiamo vantaggi. La terra cruda che citavi, appunto, è igroscopica, si chiama, questa capacità della terra di assorbire l'umidità quando è in eccesso nell'ambiente e rilasciarla invece quando l'aria si fa secca. Ed è come avere un deumidificatore naturale che si accende quando serve. Ed questo è stupendo. Fondamentale, perché parte di quello che noi chiamiamo comfort interno è dato proprio da quanta umidità c'è nell'ambiente e quindi qual è la percezione che noi sentiamo, no, di benessere dentro una stanza. E quindi sapere che c'è un materiale che sta lavorando per noi e con noi senza che noi facciamo niente è molto interessante. Ma oltre all'igroscopicità, la terra è anche ad esempio traspirante, quindi questa umidità non solo la assorbe, ma qualora dietro avesse un muro traspirante potrebbe anche lavorare in sinergia col muro, di modo da non bloccare l'umidità dentro alla parete e quindi formare muffe. Perché quella è un'altra delle cose che succedono in casa, no? L'umidità viene assorbita, certo, dalla parete, rimane sulla parete, si crea la muffa e la muffa ovviamente poi determina un ambiente non salubre all'interno, certo, della stanza. Anche Sara, se, no, anche fermi se, tutti, esatto, fermi tutti, vi devo richiamare all'ordine. Anche se è un materiale naturale la muffa, volevo dire, ma comunque è giustissimo. Sì, va bene, ci faremo una parete di muffa a casa tua però, non a casa mia. Sara, allora rimandiamo un po' tutti gli interessati ai vostri corsi, sì? Corsi Terre Paglia, vi troveranno sicuramente su internet. Sara Lucetto, grazie per essere stata con noi. Allora, buon proseguimento, buon lavoro, buona casa naturale a tutti. Grazie mille a voi per questa possibilità. Grazie. Mille, abbiamo la viabilità ora. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Orgoglioso de estar. Orgoglioso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Carlo, mi sono domandata come facciamo a fare nella puntata che registriamo la classifica delle buone notizie della settimana. Un bel problema. È una giusta domanda, perché c'è il rischio, sennò, di avere, siccome noi ci teniamo ad avere le essere aggiornati le sulle buone notizie di quella settimana lì, effettivamente non si può fare la classifica. Non si può fare la classifica, ma si può prendere una buona notizia e parlarne come merita. Esatto. E siccome questa puntata ha già dimostrato quanto noi siamo affezionati lettori delle mail che i nostri ascoltatori ci mandano, ecco, ne diamo ulteriore dimostrazione con la prossima ospite. La prossima ospite si chiama Palmira Balestreri ed è una docente dell'Istituto Comprensivo Galileo Galilei di Busto Arsizio, come dicevo, e ha sviluppato un progetto in inglese con i suoi alunni, un progetto CLIL di geografia in inglese con i suoi alunni che hanno quanti anni? hanno 10 anni, quindi sono, stiamo parlando, frequentano la classe quinta. Esattamente. Mentre solitamente il progetto inglese è più avanti, questa cosa del CLIL, quindi siete un po' degli apripista voi? Certo, sì. Noi come scuola primaria, in effetti, avendo la risorsa all'interno della scuola, abbiamo iniziato sin dall'inizio dell'anno a fare questa materia in lingua inglese per un'ora e per l'altra in italiano. Quindi in questo senso certamente siamo stati un po' apripista. Ma che cosa avete fatto con gli studenti durante il periodo di lockdown? Perché poi questa è anche la novità nella novità, perché non c'è solo il progetto in inglese in una scuola primaria di geografia, ma c'è anche lo sviluppo di questo progetto in un periodo in cui tutti erano a casa. Certo. Certo, è vero. In questo periodo ci siamo un po' tutti noi insegnanti inventati un nuovo modo di fare didattica. Nella fattispecie io, che insegno appunto CLIL, e nell'ambito di questo progetto normalmente è prevista anche qualcosa fatta dai bambini, un artefatto fatto dai bambini, che può essere una gita all'interno del quartiere, piuttosto che la realizzazione di un libro cartaceo. In questo caso, non avendo appunto il contatto con i bambini, ho sfruttato le metodologie nuove, tecnologiche, nelle quali peraltro i bambini sono la nuova generazione digitale, molto più bravi, no? Di noi. Sono molto bravi. O comunque e velocemente, quindi, apprendono, se non la sanno la imparano subito. È vero, esatto. E poi in questo periodo proprio si sono dimostrati molto capaci nell'usarlo, molto più di quanto lo siamo noi. Mm-hmm. E quindi mi sono inventata, a conclusione del percorso di geografia di classe quinta, che prevede appunto lo studio dell'Italia, delle regioni, ho voluto soffermarmi sulla provincia di Varese, la provincia dei Sette Laghi, e quindi ho invitato i miei alunni, i miei studenti, tramite sempre la modalità sincrona e asincrona, praticamente facevo queste lezioni online e poi mandavo dei video, dei tutorial su come poi sviluppare da soli il compito. Ho invitato appunto i miei alunni, che peraltro devo dire sono in buona parte anche alunni stranieri, pertanto anche non molto pratici magari pratici, del territorio, a navigare su internet e a cercare i luoghi più ameni, meno noti della provincia. Per fare che cosa? Tra l'altro questa cosa è nata in coincidenza anche col fatto che si poteva in quel periodo uscire solo però nell'ambito della provincia, per cui ho ipotizzato ho invitato i miei alunni a creare un giro, un tour rivolto ad un ipotetico turista straniero, e quindi da farsi in inglese, per poter conoscere in primis i luoghi meno noti della provincia di Varese, e quindi evitando troppo assembramento, e poi di farlo usando mezzi di trasporto ecosostenibili. Mi sembra un insieme già straordinario, esatto. Se posso dire, nel senso che intanto li ha praticamente già preparati anche a una professione, perché riuscire a fare le guide in inglese della zona dei laghi è una cosa però straordinaria, però nelle amenità della zona dei laghi, certo. Non dei luoghi più noti, no? Dovevano, certo, andare a scovare qualcosa di nuovo. Ma guardi, è stato veramente, anche dal punto di vista di insegnante, molto gratificante, perché certi bambini proprio hanno, come dire, aperto questi libri online, ecco, fatti con questa applicazione che peraltro io stessa ho imparato strada facendo, creando proprio delle agenzie turistiche, quindi c'era il pacchetto rivolto per la coppia di sportivi, piuttosto che la coppia di acculturati maturati, e quindi insomma, c'è stata veramente una corsa a chi preparava il pacchetto più accattivante. E veramente sono stati degli artefatti molto, molto, molto belli, molto interessanti, al punto che questa cosa ha interessato anche il circolo di Legambiente locale, che mi ha chiesto appunto se poteva pubblicarli sulla sua pagina Facebook e sul nuovo spazio che hanno creato rivolto ai bambini. Questo spazio si chiama Pollicino Green, che proprio in coincidenza con questo periodo è nato proprio per sensibilizzare famiglie e bambini ai problemi ambientali, avvicinarli appunto di più al rispetto dell'ambiente e anche a un tipo di mobilità più sostenibile. E è stata appunto una coincidenza di cose per cui appunto mi hanno chiesto di poter collaborare con noi. E voi ovviamente gliel'avete fatta un po' penare, dai, non avrete detto subito di sì, vi siete fatti un po'... No, in realtà io sento molto il problema ambientale, per cui abbiamo aderito con entusiasmo. Ma tra l'altro la vostra scuola mi pare molto attenta alle questioni, sì, ambientali, da quello che ho letto, sì, no? Quindi... Sì. E davvero in questa scuola, che peraltro è una scuola di periferia, per una bella coincidenza, chiamiamola così, si sono trovati nello stesso istituto più risorse. Quando dico più risorse non intendo solo più competenze, ecco, didattiche, no? Ma anche proprio sensibilità diverse che si sono unite. Io anch'io con altre colleghe infatti collaboro per portare avanti nell'ambito della scuola problematiche, cioè tematiche ambientali, quindi agganciandoci sempre con il programma didattico cerchiamo di sensibilizzare i bambini alle problematiche ambientali, lavorando anche sul territorio. Siete bravissimi, signora. Siete anche, guardi, una green school della Lombardia, sì, volevo dirlo io. Sì. Se da posso... diversi anni siamo green school, non solo noi come scuola primaria da Negri, ma anche la scuola dell'infanzia, Soglian e Speranza, poi anche le scuole medie. Siamo, siete davvero, si stati può fare, anche nel nostro possiamo territorio dire, un'apripista. Possiamo dire che siete veramente una scuola si può fare. In più le voglio fare anche i complimenti, perché trovo straordinario il fatto che studiando la geografia in realtà ci si sposti su una sorta di geografia di prossimità. In fondo lo studio della, certo, geografia è un modo di studiare, non è che se poi uno studia quella zona piuttosto che un'altra, poi studierà da solo. Quindi la ringraziamo moltissimo. Grazie davvero, complimenti ancora. Andremo a leggere la guida sul sito di Legambiente. Palmira Barestreri, ci saluti anche tutti i bambini. Buona estate, allora buon lavoro. Noi ci fermiamo qui perché siamo giunti al termine di questa puntata. Lo sai, Carlo? Certo che lo so. E allora salutiamo un po' tutti coloro che hanno partecipato alla sua formazione e costruzione. Ovviamente Danilo Di Trani, Edoardo Lavezzari. Come sempre c'è Carmelo Lauricella in regia. Beh sì, inutile che guardi, è così. Di solito ci sei tu in regia o in alternativa c'è Peter. Ma questo weekend ci sei tu, e quindi appuntamento a domani con tutti voi. Da Laura Bettini un saluto. Ciao da Carlo Gabardini, ci sentiamo alle 8:30. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.